Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no. Cambia il vento ma noi no, ma se a cambiare è il tempo, a volte qualche acciacchino ancora anche un pochino in anticipo rispetto al cambiamento ci avverte il classico dolorino. Anche voi avrete un amico che dice: guarda che domani è brutto tempo, perché sento già questo dolore magari al ginocchio, per fare un esempio, perché oggi in studio con me ho un grande esperto di ginocchio, in modo particolare il professor Roberto D'Anchise, che è primario ortopedico al Galeazzi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. E a volte il ginocchio fa male e poi cambia il tempo. Allora, è intelligente io mi questo sono, ginocchio. Posso dire che nella mia ignoranza non ho mica mai capito perché in certe situazioni, specialmente dopo una frattura, si ha una sintomatologia dolorosa al cambiamento di tempo. C'è gente che dice: guarda che domani piove, di come è fai vero. A saperlo? Vedrai il giorno dopo piove. Quindi io credo che sia, mi sono dato questa spiegazione, sia una questione di pressione atmosferica, cioè il cambio della pressione atmosferica può dare una sintomatologia dolorosa, tenendo presente che è molto più frequente nei pazienti che hanno avuto un trauma rispetto a pazienti che non hanno avuto nessun trauma. Cosa fare? Inizialmente niente, assolutamente niente, se è il dolorino che poi passa. Altro elemento importante che molto spesso preoccupa il paziente è il rumore. Molte volte i pazienti dicono: il rumore, il ginocchio si muovendolo fa scricchiola, e se non fa male non dobbiamo turbarci, se invece fa male bisogna tirare su le antenne e vedere cosa può essere. Quindi la presenza di un dolore un pochino più persistente richiede qualche accertamento. Cosa poter fare? Allora, innanzitutto, se il dolore è persistente, fare dei controlli, perché bisogna escludere tanti problemi, menischi. Ma persistente? Cosa vuol dire? Una settimana, tre giorni, un mese? Non è tanto non è tanto la continuità nell'arco della giornata, quanto la frequenza assidua. Cioè, se mi fa male oggi e poi non mi fa male dopo tre mesi, non ci turbiamo. Ma se mi fa male oggi, mi fa male domani, mi fa male dopo domani, anche se è sempre lo stesso, è un piccolo campanello di allarme che vale la pena di approfondire. Ho capito. Di solito non si fa nulla se niente si fa e se non limita molto la qualità della vita. Ci possono essere delle situazioni in cui si può evidenziare un iniziale consumo della cartilagine o comunque volte in presenza di un dolore persistente può essere indicato per esempio fare delle infiltrazioni. Le infiltrazioni ce ne sono tante in questo momento. Ci sono le infiltrazioni di acido ialuronico che vengono fatte molto spesso, che lubrificano un po' l'articolazione e possono dare un certo beneficio immediato. E si risolve, allora, se è un'inizialissima sofferenza oppure se un dolore persistente senza una causa precisa può anche essere definitivo, o se invece esiste una patologia, ecco che l'infiltrazione può avere un effetto analgesico, cioè riduce la sintomatologia dolorosa, però se c'è una patologia di base probabilmente il dolore si ripresenta. Acido ialuronico, PRP. PRP vuol dire che noi estraiamo dal sangue del paziente dei fattori di crescita che vengono utilizzati. Oggi si usano molto, sono abbastanza di moda, le cellule staminali provenienti dal grasso del paziente. Si prende il grasso dalla pancia del paziente, lo si tratta in un certo modo e si infiltra. Vorrei però far presente che queste infiltrazioni possono avere un effetto anche molto molto significativo se non vi è una patologia importante, cioè se non vi è un'usura reale dell'articolazione. In presenza di un'artrosi, per esempio, possono avere un effetto analgesico anche prolungato, anche 4, 5, 6 mesi, però dopo la sintomatologia si può ripresentare e non è che si possano fare infiltrazioni all'infinito. Esiste un remotissimo rischio, 1 su 10.000, 1 su 20.000, di poter anche avere delle infezioni, quindi è importante che l'infiltrazione venga fatta in maniera settica, con guanti sterili, con pulizia precisa dell'articolazione, della pelle, prima di fare un'infiltrazione. Ma professor Danchise, lei mi ha parlato di acido ialuronico, di PRP e di queste infiltrazioni che vengono ottenute dal grasso, solitamente quello dell'addome del paziente. Sono anche tutti più impegnativi in termini, per esempio, crescente. Anche per esempio, deve essere fatto in sedazione quello preso dall'addome, perché è chiaro che dà fastidio, bisogna prendere una certa quantità di tessuto adiposo per poterlo trattare, quindi è un pochino più impegnativo. Ma sulla base di quali criteri, di quale linee che scegliete l'ialuronico? Esatto, se uno ha un problemino saltuariamente, diciamo che ci sono anche problemi anche impegnativi, perché il PRP va fatto in sala operatoria o comunque in una struttura adeguata, l'acido ialuronico viene fatto in ambulatorio ed è, diciamo, quello dal quale si parte mediamente nei pazienti che non hanno una situazione molto importante. Il PRP è molto frequente che venga fatto negli sportivi perché si è visto che dà un certo beneficio in termini di trofismo, di nutrimento dell'articolazione. Però, siccome prendiamo il sangue, ripeto, deve essere fatto in maniera ancora più accurata rispetto e poi con strutture adeguate, come ho detto. E il tessuto adiposo è anche in relazione, diciamo che è quello che oggi ci dà un pochino più di garanzia ed è quello più indicato nelle situazioni di artrosi, cioè un iniziale dolore al ginocchio, e non mi sognerei mai di fare un'infiltrazione con il grasso, quindi deve essere valutato con attenzione dal medico. Professor Danchise, abbiamo parlato di artrosi. L'artrosi ci dà qualche piccolo segnale nelle fasi proprio iniziali. Vogliamo ricordarlo, che così che uomo avvisato, ginocchio certo, no, fondamentalmente salvato. Dolore e gonfiore. Se c'è dolore e c'è anche gonfiore, ecco che bisogna tirar su le antenne, perché può darsi che qualche cosa ci sia. E considerare anche la forma del ginocchio, se c'è una deformazione ad X o comunque una deformazione dell'arto, se ci sono stati delle problematiche in passato tipo asportazione dei menischi o legamenti crociati, trattati o non trattati, sono tutti elementi che devono far tirare sull'antenna, perché l'articolazione è complessa, basta poco per alterarla e quindi per andare incontro all'usura della cartilagine. Una raccomandazione alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, che ormai è dimostrata, per salvare il ginocchio dall'usura degli anni, dallo stress, è necessario una buona attività fisica senza esagerare, perché per esempio si parla spesso dei maratoneti, per fare un esempio, che secondo me la più grossa usura che si possa dare all'articolazione. Lavorano bene perché lavorano con attenzione, però lavorano tanto l'articolazione e questo tende a consumarle. Grazie al professor Danchise. 349-238-6666. Mandate un messaggio, ditelo all'amico se questo tema vi è interessato e se volete saperne di più. Va tutto bene. E adesso è arrivato il momento di salutare il nostro ospite della settimana, Leonardo Caffo, filosofo, che è in studio con me. Ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Questa settimana la prendiamo con filosofia. E allora, già ieri ci siamo un po' allenate, il gioco è, Leonardo, raccontalo tu. Il gioco è provare a prendere alcune frasi di un filosofo importante questa settimana, che si chiamava Thoreau, lo abbiamo detto, famosissimo, ispirato film, L'attimo fuggente, eccetera, e vedere se sono attuali anche oggi, se sono importanti. Era la metà dell'Ottocento, ma insomma, vediamo che sono attuali anche oggi. Voi ascoltateci, meditate, pensateci su, poi mandate un messaggio vocale al 349-238-6666, una sorta di dillo all'amico, e così io farò ascoltare naturalmente i vostri messaggi anche a Leonardo, che come un bravo filosofo prenderà spunto, giusto? Certo. Da quello che voi direte per elaborare, chissà, nuove proposte, nuove soluzioni. Ieri e poi abbiamo... finirai in un obiettivo salute che so, magari verrai citato nel 3023. Obiettivo salutissimo. E obiettivo salutissimo, diranno un filosofo, Leonardo Caffo, scriveva così. Invece Thoreau, che cosa ci racconta Thoreau diceva, oggi? Scriveva appunto, per esempio, ieri abbiamo parlato della disobbedienza civile, un altro grande libro, il più famoso di Thoreau è Walden, in cui ci spiega cosa significa essere filosofi, che però, qui c'è l'inganno per noi interessante, ci spiega cosa significa essere umani. Ci dice essere filosofi non significa soltanto tanto avere pensieri acuti o fondare una scuola, ma amare la saggezza vivendo secondo i suoi dettami, cioè conducendo una vita semplice, indipendente, magnanima e fiduciosa. Significa risolvere i problemi della vita non solo teoricamente ma praticamente. Che ci sta dicendo qui, che sembra tutto, come dire, molto un'omelia quasi quella di Thoreau? In realtà ci sta dicendo: pensa bene e agisci come pensi. Cioè non cercare di distinguere il pensiero dall'azione. Questa è una cosa a cui noi siamo molto abituati. Nel linguaggio comune la chiamiamo come predicare bene, razzolare male. Thoreau ci sta dicendo: se si prova ad avere un buon pensiero, anche le azioni saranno d'accordo. E voi dite la vostra. 349-238-6666. Certo che oggi sempre più tosto è questo Thoreau. Non so se è lui o sei tu che lo interpreti. No, era Monello anche lui. Ecco, e allora noi ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per la diretta Facebook, e domani per una nuova puntata di Obiettivo Salute e Risveglio, in cui tornerà naturalmente Leonardo Caffo. A domani.